There's a question here that perhaps we should answer before. There's some others that I put there. There's some others that I put there. Previous evenings. These questions I can answer over the weekend, you know. Let me just answer this what happens to talk about. So tomorrow is the day of Aditana, great determination. Domani è la giornata dedicata alla grande determinazione, che si chiama Aditana. So basically it's your last full day. And we don't really finish the practice till tomorrow lunchtime, after lunchtime. Quindi è il vostro ultimo, è la vostra ultima giornata completa, e noi finiamo poi la pratica con il pranzo della domenica. And I think I've told everybody that. Saturday lunch. Saturday. Con il pranzo di sabato. Sabato. Sì. And I think I've told everybody. That tomorrow there's no official interviews, but if you need one, just come and ask. Yeah. Quindi domani non ci saranno dei colloqui ufficiali informali, però se ne avete bisogno potete chiedere e Dante lo concederà. Sì. And after that, after lunch, we do an extended metta practice. Poi dopo pranzo faremo una lunga pratica di metta. Which includes exercises around forgiveness and determination. Che comprenderà degli esercizi sul perdono e sulla determinazione. And then there is a little there is a finishing ceremony. E poi ci sarà una cerimonia di chiusura. And then hopefully the weather will allow us to take a little walk together. E si spera che il tempo sia clemente, che ci permetta di andare a fare una passeggiata insieme. And then in the evening we can come and have a full discussion. Poi la sera possiamo tornare e fare una sessione di discussione, domande e risposte. Then we meditate and go to bed. Poi meditiamo e andiamo a dormire. Questo è Saturday. Saturday, sì. Tutto questo era sabato, sabato. Domani invece silenzio. Sì. Again, there's a question here about how to do the practice at home, so this we can do on Saturday. Quindi c'è una domanda che riguarda come praticare a casa, e anche questa possiamo poi discuterne sabato. There's a question on the difference between Samatha and Vipassana. C'è una domanda che riguarda la differenza tra la pratica di Samatha e di Vipassana. I don't want to spend too much time on it, but I'll just give you a very, hopefully... a clear definition. Quindi non voglio dedicare troppo tempo a questa questione, però vorrei darvi una definizione breve e chiara. Samatha is concerned with establishing a state of mind. Quindi Samatha riguarda il stabilizzarsi in uno stato mentale. Which is based on eventually an internal state which is not dependent on anything outside. E questo quindi è appunto stabilizzare questo stato interiore che non dipende da nulla di esterno. So for instance doing the metta practice one can enter into these internal ecstasies. Quindi per esempio facendo la pratica di metta uno può entrare in queste estasi interiori. The Buddha recommended these, you know, he thought that they were excellent in producing the beautiful mind, the beautiful heart. E quindi il Buddha questi le suggeriva, erano modi in cui si poteva sviluppare questa mente meravigliosa, il cuore meraviglioso. But he had discovered that this does not actually purify the heart or lead to insight. Però aveva scoperto che questo in realtà non permetteva di purificare il cuore e non conduceva all'insight, cioè all'intuizione profonda. As you've now become hopefully very clear, Vipassana is something else. Si spera che adesso invece vi sia molto chiaro che la Vipassana è un'altra cosa. Vipassana is about a level of understanding, a level of consciousness. Quindi la Vipassana riguarda invece un livello di conoscenza, un livello di coscienza. Which can observe all states of mind, including these ecstasies. Che può osservare qualsiasi stato mentale, comprese queste estasi. Yeah. And the dual purpose is to allow the heart to purify itself and to see where we are making a mistake. E quindi ha un doppio scopo: uno è quello di purificare il cuore e vedere dov'è che stiamo compiendo degli errori. And in understanding where the mistake is, that takes us right down to a fundamental delusion. E quindi nel comprendere qual è questo errore, questo ci porta alla comprensione dell'illusione fondamentale. And when this delusion is destroyed, that is what we call the enlightenment, the awakening. E quindi quando questa illusione viene distrutta, è questo che noi chiamiamo l'illuminazione, il risveglio. So where is the delusion? Allora, dove sta questa illusione? It's in the way we're looking. Sta nel modo in cui noi stiamo guardando. To give you an example, I went to have my eyes tested, and when I got the new glasses, this eye just didn't feel right. Per farvi un esempio, sono andata a farmi controllare la vista e quando mi hanno dato gli occhiali nuovi, l'occhio sinistro c'era qualcosa che non andava, aveva una sensazione non giusta. Even though I could see very clearly. Anche se riuscivo a vedere molto chiaramente. So I just presumed that they'd done the wrong glass, they'd made a mistake on the glass. Allora io ho supposto che avessero fatto un errore nella lente. But in fact, it was an optician's fault that he hadn't discovered this what they call astigmatism. Ma in realtà era un errore dell'ottico che non aveva visto quello che chiamano un astigmatismo. It's like in the old glass pane when it used to wave like that. È un po' come nelle vecchie vetrate, no? I vecchi vetri quando c'era una specie di come si può dire, una curvatura. Una curvatura nel vetro. Yeah, and so you know it distorts the image. Yeah. E quindi in qualche modo distorce l'immagine. Yeah. So, see, I didn't know that my eye was at fault. Quindi io non sapevo che il mio occhio aveva questo difetto. Neither did I know it before I had these glasses or when the glasses were remade. I still don't know that I have this astigmatism. Quindi non lo sapevo né prima che mi facessero gli occhiali né dopo che mi hanno dato gli occhiali nuovi. Io ancora non so di avere questo astigmatismo. No, see? So, in other words, it's within the perceptual faculty that the problem lies. E quindi, in altre parole, il problema sta proprio nella facoltà percettiva. So, now that I do know it, if ever I get new glasses and my eye feels uncomfortable, then I know this is because of my eye. Adesso che lo so, se io dovessi mai prendere un nuovo paio d'occhiali e il mio occhio di nuovo ha questo senso di, come dire, di disagio, allora io adesso lo so, conosco il motivo. So, through the meditation, through Vipassana, we realize that it's the way we are looking, the way we're relating to the world, which is the problem. Quindi attraverso la Vipassana noi capiamo che è il modo in cui noi stiamo guardando, il modo in cui noi ci stiamo relazionando al mondo, è quello il problema. And this is, you know, put in the Buddhist teaching as the three characteristics of existence. E questo, negli insegnamenti del Buddha, è spiegato attraverso le tre caratteristiche dell'esistenza. So, in the tradition, in the Theravada tradition, but also in other traditions, you can practice Samatha and Vipassana, or Vipassana only. E quindi in questa tradizione, nella Theravada ma anche in altre tradizioni, uno può fare Samatha prima e poi Vipassana, oppure solo Vipassana. Yeah. Okay. Va bene. Sì. Is it a question about this? Mi è venuta a mente 2 minuti fa. Ma riguarda questo argomento? No. No. Beh, is it a question about the practice? Riguarda la pratica? Sì, riguarda la dottrina. Io volevo, beh, casomai se non può rispondere non mi dico. No, come, come. Io volevo sapere se, secondo Vante, il termine contentezza italiano potrebbe essere equivalente alla felicità che viene nominata anche nel Buddha. Dal Buddha. So here there's a language problem. In Italian you have this contentezza, which is like happiness. Yeah. It's not contentment. It's okay. A little bit different. Yeah. It's a synonym to felicità. Contentezza. Okay. So he wants to know if it's what the Buddha the same has the same meaning as the one that the Buddha would use in the text, so, like sukha, I would imagine. Yeah, like sukha. Whenever the Buddha's talking about the happiness of nibbana. Ogni volta che il Buddha parla della felicità del Nibbana, or the peace of Nibbana, o la pace del Nibbana, these are not mental states. Allora questi non sono degli stati mentali. They're not emotions. Non sono emozioni. Ah. So there is something else. Quindi c'è qualcos'altro. Okay, so the other questions I can answer over the weekend. E quindi alle altre domande darà risposta durante il weekend. Mm. So this evening especially I just wanted to for some of you, one or two of you anyway, revise dependent origination and for some of you introduce you to it. Allora, questa sera vorrei per alcuni di voi ripassare l'originazione dipendente e per altri invece trattarla per la prima volta. This is what we chant in the morning, Avijja Paccaya Sankara. So. Ed è quello che noi recitiamo al mattino, Avijja Paccaya Sankara. So if you want you could refer to that piece of paper if you wanted to just see what I was talking about. Quindi, se volete potete fare riferimento a questo... questo foglio che vi abbiamo dato per sapere di cosa stiamo parlando. Nella seconda pagina, Paticca Sammupada. Yeah. Sorry? No, come I'll translate it, it's easy. The actual words mean that everything arises dependent on something else. Quindi le parole effettivamente stanno a significare che ogni cosa che sorge sorge in dipendenza da qualcos'altro. Mm. And the word that the Buddha uses for that is this word anatta. La parola che il Buddha utilizza per questo è la parola anatta. Anatta is usually translated as not me, not mine, not self. Quindi anatta è di solito tradotto come il non io, non mio, non sé. And this causes a lot of confusion for us. E questo ci crea un po' di confusione. Mm. Because we're not it there is what you might call the empirical self, the self that you experience yourself to be. Perché c'è il sé empirico, che è quel sé che ognuno di noi sperimenta come se stesso, diciamo. Mm. Which we can say is a changing identity. Che noi possiamo dire che è un'identità in cambiamento. Mm. So, when you are with family, you're different from, say, with somebody whom you don't know. E quindi, per esempio, quando siete con la vostra famiglia siete diversi rispetto a quando siete con una persona che non conoscete. Mm. And you were different as a child from what you are now. E eravate diversi da bambini rispetto a come siete adesso. Mm. But there is some overarching concept which gathers all this together from a central point which gives us the impression of I. Ma c'è un concetto più ampio che riunisce tutto questo come un punto centrale che ci dà questa idea di un io. Mm. When you in your meditation, when you're very calm, very very still, and you're very clear that there is the observer. Quindi quando siete in meditazione, siete molto calmi, molto quieti, molto quiete, allora per voi è molto chiaro che c'è un osservatore. Mm, a feeler, an experiencer. O uno che sente, uno che sperimenta. Mm, somebody who knows. Quindi qualcuno che conosce. Ah. So this is, shall we say, the concept which, when we go in back into the body, simply includes the body in itself. Quindi questo è un concetto che quando entriamo nel corpo comprende il corpo in se stesso. Mm. And the knowing, this intelligence, the Buddha within, is as it were experiencing a mirror image of its presence in the mind. Quindi questa intelligenza, questo Buddha interiore, è come se stesse facendo un'esperienza, like a mirror image. Come se fosse uno specchio che rispecchia se stesso nella mente. Mm, that's right. For instance, when you look at a mirror, you see your face. Per esempio, se vi guardate allo specchio, vedete il vostro viso. But that's not the face that everybody else sees. Ma quello non è il viso che tutti gli altri vedono. No. If you have you all tried looking at your face as other people see it with two mirrors? Avete mai provato a guardare il vostro viso così come lo vedono gli altri con due specchi? Sì. Sometimes it comes as a surprise that your nose bends to the left. You hadn't noticed it. A volte viene come una sorpresa, no? Vedere che il naso, per esempio, gira a sinistra, non l'avete ancora notato. It's like when you first hear your own voice from a recording. È come quando sentite per la prima volta la vostra voce da un registratore. Mm, or see yourself in a video. O vi vedete in un video. Yeah. It's not quite the way you had imagined yourself to be. E non era esattamente il modo in cui voi vi eravate immaginati di essere. Yeah. So this pure intelligence, shall we say, feels its presence within the mind, which is just, remember, an energy pattern. Quindi questa energia pura sente la sua presenza all'interno della mente, che ricordate è solo un modello energetico. Mm. And we experience that as a sense of presence. E noi questo lo proviamo, lo sperimentiamo come un senso di presenza. Yeah. Could you please repeat the overall sentence? When you're in your meditation and you are just the observer, just the feeler. Quindi siete in meditazione, siete solo l'osservatore, solo colui che sente o colei che sente. You're aware of this observer, this feeler. Allora voi siete consapevoli di questo osservatore, di questo come si può dire, colui o colei che sente. Sì. So if you're aware of being the observer, you can't be it. Quindi as a subject and an object. Se siete consapevoli di questo osservatore, non potete voi stessi essere quell'osservatore. Sì. Perché è un soggetto, è un oggetto. But we think ourselves to be that. Ma noi ci crediamo quello, cioè noi riteniamo di essere quello lì. Mm. And when that consciousness, when that knowing descends into the body and becomes an emotion, a feeling or a thought, it becomes that. Quindi quando quella coscienza entra nel corpo e diventa una sensazione o una sensazione fisica o un pensiero, then it becomes that. E poi diventa quello. Yeah. So here you are meditating and suddenly the mind is in a dream. So that's where you are. Quindi state meditando e improvvisamente entrate in un sogno. Voi siete quel sogno. Mm. You see? So this this becoming, this what the Buddha talks about becoming, is this process of constantly recreating the sense of I. Quindi questo divenire, quello che il Buddha chiama divenire, è questo costante creare questo senso dell'io. Mm. Ahankara, making self. Making self. E creare l'io, creare l'io. Now, This is where this dependence origination begins. Quindi è qui che inizia questa originazione dipendente. It starts from this position of not knowing. Quindi comincia da questa posizione del non conoscere. Yeah. Sometimes this word is translated as ignorance. A volte questa parola è tradotta come ignoranza. But the word ignorance sort of suggests that you should have known. Ma la parola ignoranza suggerisce che è una cosa che tu avresti dovuto conoscere. Yeah, there's a hint. But this is completely non-culpable. Ma questa è una cosa che non, come dire, di cui non, uno non deve sentirsi in colpa, non è responsabile del non conoscere. Yeah, that's the way it is. And, è semplicemente così. And this not knowing is, shall we say, running underneath our whole lives. Quindi questo non conoscere è come se scorresse sotto tutta la nostra vita. And when it comes into action, when it comes into the world as a thought, as a feeling, as an action, it takes on that identity. Quindi quando entra nel mondo attraverso una sensazione, un pensiero o un'azione, assume quella identità. And these little identities are our habits. E queste piccole identità costituiscono le nostre abitudini. So the word then is sankhara. E quindi la parola successiva, se vedete, è sankhara. La which, prima è avijja, la seconda è sankhara. Sankhara, which means anything which is manufactured, conditioned, put together. Vuol dire qualsiasi cosa che è costruito, che è condizionato, che è messo insieme. Now, well, every time you get angry, it's because of a habit. Allora, and when you become angry, you are the anger. Allora, chiedevo un esempio pratico. Ogni volta che ti arrabbi, stai creando un'abitudine. E quindi tu praticamente sei la rabbia. You become identified in the anger. Praticamente ti identifichi nella rabbia. Or happiness, excitement. O la felicità, l'eccitazione. See? And these are creating these habits within us. E questi creano delle abitudini dentro di noi. Now, there are two. Shall we say ways to teach this dependent origination? Ci sono due modi di insegnare questa originazione dipendente. Traditionally, it covers three lives. Nella tradizione copre tre vite. Yeah. What we've just discussed is what you come into this life with from the past life. Quindi quello che abbiamo appena discusso fino adesso è ciò con cui arriviamo nella nostra vita dalla vita precedente. Or lives. O vite precedenti. So we are born with that state of not knowing and a collection of habits that we've developed from past lives. Quindi noi entriamo in questa vita con questa base del non conoscere e con tutta una serie di abitudini acquisite dalle vite precedenti. The whole middle section up until birth is happening now in this life. Tutta la parte centrale fino a quando si arriva alla nascita nella catena è quello che sta succedendo in questa vita. Yeah. And the birth, old age, sickness and death is the next life. E tutta l'ultima parte che è la vita, quella, la vita, la come si dice, diventare vecchi, la morte, eccetera, questo riguarda la prossima vita. But there is a much more, I think, immediate understanding of dependence origination. Ma c'è un modo di interpretare questa originazione dipendente che è molto più diretta, più immediata. And this really is established when you recognize that the only moment that actually exists is this moment. E questo accade quando uno si rende conto che l'unico momento che veramente esiste è questo. Yeah. So as we enter into this moment, we bring all our past habits with us. Quindi quando noi entriamo in questo momento, in questo istante, noi portiamo con noi tutte le nostre abitudini passate. And then this wheel turns. E poi gira questa ruota. And it is the beginning of that moment the receiving of the past, the manufacture of something new, and the movement into the next moment, which is birth, old age and death. E quindi è l'ingresso in questo istante con tutto quello che è arrivato dal passato, poi la costruzione in questo istante di tutta questa parte centrale e poi la parte finale che è la vecchiaia, la morte, eccetera. Allora, is the beginning, middle and end of this process. E quindi questo corrisponde all'inizio, la parte centrale, la fine di questo processo. Quindi non su tre vite, ma su riferito adesso. Although I say a moment, it's a succession of moments for the wheel to turn. Quindi anche se io parlo di un momento, di un attimo, è una successione di attimi che è necessario perché sia messa in moto questa ruota. And it doesn't always turn. Non gira sempre. No, when you're asleep, there's no dependence origination. Perché quando dormite non c'è un'originazione dipendente. And when you see a desire arise and a sensual desire, an unwholesome desire arise and let it pass, it doesn't turn. E non gira questa ruota anche quando voi vedete, per esempio, un desiderio oppure uno stato, come dire, non salutare e aspettate che passi, non agite. Then it doesn't turn. In questo caso non gira. So, if we can just imagine this moment, as we enter into this moment, we bring all the conditioning of the past, all our past karma. Quindi cerchiamo di immaginare come noi entriamo in questo attimo, in questo istante, e noi portiamo con noi tutti i nostri condizionamenti passati, le nostre abitudini passate, il karma passato. And what do we find in this moment? We find consciousness. Cosa troviamo in questo momento? Noi troviamo la coscienza. This consciousness is of course dependent on these past conditionings. Questa coscienza ovviamente dipende dai condizionamenti passati. And it's in this body and mind, the psychophysical organism. Ed è in questo corpo, questa mente, in questo organismo psicofisico. This organism has ways in which it can contact both the world out there and the world inside, and this is what we call our senses. Questo organismo ha una modalità di entrare in contatto con le cose all'esterno e le cose all'interno. And this we call it. Did you say this we call it? Our senses. Ah, no. E questo lo facciamo attraverso i nostri sensi. And in Buddhism the mind is also a sense base. E nel buddismo la mente è anche una base dei sensi. So when an image comes up, something, you know, there is an internal sense base of seeing, an internal sense base of hearing, of feeling and so on. Quindi quando c'è uno stimolo esterno c'è una base interna per la vista, per l'udito e così via. So with these we that's all given, that's all here at the same time. Quindi tutto questo è una cosa che ci è data, cioè che è qui contemporaneamente. So there is this fundamental not knowing. Quindi c'è inizialmente questa fondamentale non conoscere. There's a whole collection of potential conditionings. C'è tutta una raccolta, diciamo, un insieme di condizionamenti potenziali. There is this consciousness. Poi c'è la coscienza. Which is just, you know, being here, knowing. Che è semplice essere qui, conoscere. There is the body and mind, the psychophysical organism. Poi c'è il corpo e la mente, questo organismo psicofisico. And there's the sense basis. E poi ci sono le basi dei sensi. If any of these things aren't there, then consciousness cannot arise. Se uno qualsiasi di questi elementi non ci fosse, allora non potrebbe sorgere la coscienza. So for instance, people who go into a coma they probably have some small consciousness, but it's being stopped because the physical phenomena has been stopped. Per esempio, le persone che sono in coma forse hanno un residuo di coscienza, però what is it that stops? Well, the body has been siccome però questo organismo psicofisico non può percepire praticamente, allora c'è un'interruzione. So let us presume that we're all perfectly okay and we're entering into this moment. Quindi supponiamo che siamo tutti bene e stiamo entrando in questo momento. Right. So as we enter into this moment, we have contact. Quindi come entriamo in questo momento, c'è il contatto. So it depends on the stimulus which produces the contact. E questo dipende dallo stimolo che produce il contatto. So if it's, you know, if we're looking, the state where our attention is with the eye. Se stiamo guardando, l'attenzione è con l'occhio. And we are receiving stimulus from the photons. Well, we know that. E stiamo ricevendo gli stimoli dai fotoni. So our outer senses are dependent on something coming towards us from the outside. Quindi i nostri sensi dipendono da qualcosa che ci viene incontro dall'esterno. But as we know, there's also something coming from inside the body. Ma come sappiamo c'è anche qualcosa che viene da dentro il corpo. So these are our sensations, our feelings and our thoughts. Le nostre sensazioni, i nostri pensieri. At this point of contact, there has to be, in Buddhist psychology, a sense base, consciousness, and the object. Allora, a questo, cioè in questo contatto, secondo la psicologia buddista, perché questo contatto avvenga, ci deve essere una base dei sensi, una coscienza e un oggetto. Now, all sentient beings must have this basic contact. Tutti gli esseri senzienti devono avere questo contatto di base. I mean, even worms must have feeling of some sort. Anche i vermi devono avere un certo tipo di sensazione. The next step is where we create the duality of the world. Il passo successivo è dove noi creiamo la dualità del mondo. Because now we begin to perceive these contacts as either likable or unlikable. Perché qui noi cominciamo a percepire questi contatti come piacevoli o non piacevoli. So we know when a feeling is pleasant or unpleasant, we know when a thought is pleasant or unpleasant, there's a perception of things at the level of whether we experience it as pleasurable or unpleasurable. Quindi noi possiamo considerare una cosa che vediamo come piacevole e spiacevole, o uno stato mentale come piacevole o spiacevole, per cui a questo punto noi percepiamo il mondo secondo questo criterio, se appartiene alla categoria delle cose piacevoli o spiacevoli. And the Buddha referred to this in five ways: physical and mental, pleasant, unpleasant feelings, and neutral. Physical. There were five types of feelings. Quindi il Buddha indica, elenca cinque tipi di sensazioni. Physical, pleasant, unpleasant. Quindi sono fisici, piacevoli, spiacevoli e neutri. Mental. Mentali. Pleasant, unpleasant. Piacevoli, spiacevoli e neutri. And well, the neutral he just put as combining both. Okay, quindi praticamente per ripetere, allora fisici piacevoli spiacevoli, mentali piacevoli spiacevoli e neutri, che comprende sia quelli fisici che quelli mentali. So but when we actually look closely at neutral feelings, you'll see that they split into slightly pleasant or slightly unpleasant. Però se guardiamo attentamente queste sensazioni neutre, vedremo che anch'esse si dividono in leggermente piacevoli o leggermente spiacevoli. Now, the Buddha also experiences this, you see. Anche il Buddha ha questa esperienza. Yeah. In questo modo. Yes, if you're a sentient being, that is how you're going to experience the world. Se siete un essere senziente, è così che sperimenterete il mondo. But now we have a reaction. Ma adesso abbiamo una reazione. And this leads us into three very unfortunate steps. Questo ci porta verso tre passi, come si può dire, tre fasi. Molto sfortunate, solo che in italiano non rende tanto bene, un po' negative, diciamo. Yeah. the desire, the craving, the grasping and the becoming. Quindi il desiderio, la brama, il voler afferrare o trattenere e becoming. Il divenire. So what we've been looking at, especially hopefully with the eating, is to see this connection of desire. Quindi quello che noi abbiamo osservato ultimamente, soprattutto con il mangiare, è proprio questa reazione del desiderare. Now remember, not all desire is unwholesome. E ricordate che non tutti i desideri sono non salutari. The Buddha also has desires. Anche il Buddha ha dei desideri. I mean, he will say it's now time to go on arms round because he feels hungry. A un certo punto dice adesso è ora di andare a fare il nostro giro di questo, insomma, perché ho fame. And remember that upon his awakening and when he'd understood what he had grasped, his first thought was, who can I teach this to? E ricordate che quando si è illuminato dopo il suo risveglio, il suo primo pensiero è stato: a chi posso insegnare tutto questo? By the way, this goes back to an earlier thing I said about compassion and love. Questo si riferisce anche a qualcosa che ho detto precedentemente riguardo la compassione e all'amore. If you remember, in Zen they don't bother to do loving kindness because it arises naturally with wisdom. Ricordate che vi ho detto che nello Zen non fanno la pratica della gentilezza amorevole perché ritengono che sorga naturalmente con la saggezza. That's what happened to the Buddha. È quello che è successo al Buddha. As soon as he was awakened and he understood what he had discovered, he wanted to share it. Appena si è risvegliato e ha compreso bene quello che aveva scoperto, voleva condividerlo. So this desire we're talking about is a desire based on this undercurrent of delusion. Quindi questo desiderio di cui stiamo parlando adesso è basato su questa, come dire, corrente sotterranea di illusione. And this delusion expresses itself in seeking real happiness in this world. E questa illusione si esprime attraverso il ritenere che sia possibile trovare la felicità in questo mondo. Real, lasting, permanent happiness in this world. Quindi una felicità vera, duratura e permanente in questo mondo. Ah, you see? So you can see we are into continual disappointment. Quindi voi potete capire che noi andiamo incontro ad una continua delusione. So this grasping is trying to hold on to that which is pleasant and trying to get rid of that which is unpleasant. Quindi questo afferrare si riferisce a questo voler trattenere tutto ciò che è piacevole e sbarazzarci di tutto ciò che non lo è. So that first reaction is to grasp it or to push it away. Quindi questa prima reazione è di o trattenerlo o di spingerlo via. Now the grasp, that's the craving, the brahma, what do you call it? Sì, la brahma. Quindi questo si riferisce alla brahma. But now there is an identity goes into that wanting and not wanting. Ma qui c'è un'identità che entra in questo volere o non volere. And that's what we call the grasping, the upadana. Ed è questo che noi chiamiamo l'afferrare, upadana. So, and then of course, once you've identified with it, you empower the desire. Una volta che ci si è identificati, allora noi potenziamo questo desiderio. And that's the becoming. E questo rappresenta il divenire. So there you are on a hot day and you see the ice cream. Ecco, so. Allora siete lì in una vera giornata calda e vedete il gelato. Sì. So first of all there's the photons in the eye. Prima di tutto ci sono i fotoni che nell'occhio. There's the perception, ice cream. C'è la percezione, gelato. There's the reaction, want. C'è la reazione, lo voglio. Then there's the identity, I want. Poi c'è l'identità, io voglio. And before you know it, you're buying one. E prima che ve ne accorgiate, ne state comprando una. Ah, and you're eating it. Ve lo state mangiando. You have become an ice cream eater. Siete diventati un mangiatore, siete diventati un mangiatore di gelato. Sì. So the psychological process is ice cream want I. Quindi il processo psicologico è gelato voglio io. Ah, but that's not how we experience it. We think it's I want ice cream. Ma questo non corrisponde a come noi lo sperimentiamo, perché per noi è io voglio il gelato. But what we come to recognize in our meditation is that the wanting comes before the I. Ma quello che noi, di cui noi ci rendiamo conto in meditazione, è che questo volere arriva prima dell'io. And this, because of this, you see, we are given a momentary space. E proprio a causa di questo, o grazie a questo, ci viene dato uno spazio momentaneo. In which we can stop the I and just feel the desire. In cui noi possiamo interrompere l'io e semplicemente sentire il desiderio. Yeah. And we discover that by doing that the desire fades away. E noi scopriamo che semplicemente facendo questa operazione il desiderio svanisce. Where is this desire arising out of? Ma da dove salta fuori questo desiderio? From this underground conditioning, these underground habits, the sankhara. Ma da questi, da queste abitudini sotterranee, questi condizionamenti sotterranei, i sankhara. So you have this underlying delusion, huh? You have this little machine going on underneath with all the little habits. Quindi avete questa illusione, come dire, sottostante. Poi avete questa piccola macchina che sono i sankhara che girano. Just ticking over, you know, like a car. Sono proprio come una macchina, no? Che fanno tic tic tic tic tic, come un meccanismo. And then you have this ice cream come in. E poi vi entra dentro dall'occhio, vi entra dentro il gelato. It goes down here into this sankhara. Quindi scende dentro questi sankhara. And out of the sankhara arises this animal. E fuori dal sankhara viene fuori questo animale. We then dive into this animal and I become the ice cream eater. E quindi noi ci tuffiamo dentro questo animale e io divento il mangiatore di gelato. So that moment of identity is a moment where we actually suffer. Quel momento di identità o di identificazione, possiamo dire, è il momento in cui noi soffriamo. Try to be very clear about this in your meditation. When there is desire and you are aware of the desire, there is no suffering. Provate cercate di essere molto chiari a questo riguardo nella vostra meditazione. Quando sorge il desiderio e siamo molto chiari rispetto al desiderio, non c'è colui che soffre, non c'è sofferenza. There's no suffering. When there is just vedana, pleasant, unpleasant, there is no suffering. Quando c'è solo vedana, cioè sensazione piacevole o spiacevole, non c'è la sofferenza. No, see? Make it very clear to yourself that suffering only arises with the I. Quindi siate molto chiari rispetto a questo. La sofferenza nasce solo insieme all'io. And it's almost impossible, at least in my understanding, to stop the I doing something. Ed è quasi impossibile, per quanto ne so io, impedire all'io di fare qualcosa. Because there's so much energy in the I that it empowers the desire. Perché c'è talmente tanta energia in questo io che è come se potenziasse il desiderio. And that's the will. E questa è la volontà. This will creates an act. Questa volontà crea un atto, un'azione. Which is governed by the I. Governata dall'io. And therefore we get this becoming. E quindi da qui deriva questo divenire. Divenire. And this, the Buddha says, Chaitana, this is the will. Chaitana è la volontà. La volontà is kamma. Quindi il Buddha dice che Chaitana, la volontà, è il kamma. Yeah, that's what is creating our condition. Perché è questo che crea i nostri condizionamenti. Now this bhava, this becoming, quindi bhava is channeling straight down into this little motor. Quindi si incanala direttamente in questo piccolo motore. And is reinforcing an old habit. E sta rinforzando la vecchia abitudine. Yeah. So the next time we see ice cream, it'll be even more difficult to say no. Quindi la prossima volta che vediamo un gelato sarà ancora più difficile dire di no. Ah, sì. So as soon as we finish the ice cream, we've been through that process, the birth, the middle and the end of one turning of the wheel. Quindi appena abbiamo finito questo gelato, abbiamo finito questo processo in tre fasi, dell'inizio, la parte mediana e la fine di questo girare della ruota. In fact, I think it's truer to say that with every touch of ice cream on the tongue, the wheel is turned. Forse sarebbe addirittura più vero dire che con ogni tocco della lingua sul gelato noi passiamo, c'è un nuovo giro, diciamo, della ruota. So what the Buddha is saying is, see this point of desire, allow it to die away and the wheel won't turn. Quindi quello che il Buddha ci sta dicendo, vedete questo punto in cui nasce il desiderio, lasciate che passi e in questo modo la ruota non girerà. And slowly we are teaching ourselves to live in a world which has both pleasant and unpleasant experiences, but without suffering. Quindi un po' per volta noi stiamo insegnando a noi stessi a stare in questo mondo in cui ci sono esperienze piacevoli e spiacevoli, ma non c'è la sofferenza. Because now that intuitive intelligence is no longer caught up in that process, having seen the problem. Perché adesso questa intelligenza intuitiva non è più catturata, non è più prigioniera di questo processo, perché ha visto qual è il problema. And that's what we're going. That's the process of purification and liberation and awakening. E questo è proprio il processo di purificazione, di liberazione e di risveglio. Semplice. In case I forget, there's the Buddha often describes something by telling you what it is not. Il Buddha spesso descrive qualcosa dicendoti che cosa non è. This is also, you find this in all mystical traditions. E questo si trova in tutte le tradizioni mistiche. So when he describes Nibbana, his preferred explanation is to tell you what it's not. E quindi quando descrive il Nibbana, la sua definizione preferita è dirvi, spiegare quello che non è. So it's not born, doesn't die, not created, not compounded. Quindi è il non nato, il non creato, il non composto. Doesn't die. Ciò che non muore. Yeah. The unconditioned, you say. L'incondizionato. Yeah. So okay, so what is it? Quindi vabbè, non è questo, ma e allora che cos'è? Now there's a very interesting discourse where somebody asks the Buddha, where do the four great elements, where do the four great elements, where are the four great elements destroyed? Allora c'è un discorso interessante in cui una persona chiede al Buddha, ma dov'è che i quattro grandi elementi sono distrutti? Now the four great elements are the way that the mind experiences the world. I quattro elementi, grandi elementi, sono il modo in cui la mente ha esperienza del mondo. Pressure, heat, what do you call it? Liquidity, all basic contacts. La pressione, il calore, la liquidità, insomma, la fluidità, tutte quelle esperienze base del contatto. So what he's asking the Buddha is, where is the world destroyed, the world as we know it? E quindi quello che sta chiedendo al Buddha è, dov'è che l'intero mondo viene distrutto, il mondo che, così come noi lo conosciamo? He says this is the wrong question. E lui risponde: questa è la domanda sbagliata. The real, the proper question is where do these four great elements, where does the world, the whole world, not find a footing? Allora, la domanda giusta è: dov'è che tutti questi elementi che compongono il mondo non trovano, come dire, un find a footing. Not find a place. Sì. Not find a place, not appear. Sì. Quindi, yeah. Sì, qual è il posto dove non trovano un posto, però non è tanto elegante come forma. It's where they do not appear. Sì, quindi dov'è che non appaiono. Right, where do they go? Now remember, these four elements are what we are constructing the whole world out of. Quindi ricordate che questi quattro elementi è ciò attraverso i quali noi ci costruiamo il mondo. So it includes emotions, thoughts, etc., etc. Quindi comprende anche le emozioni, i pensieri e via di seguito. And his answer is, there is a consciousness which is non-manifested. Allora, la sua risposta è, esiste una coscienza che non è manifesta. In other words, there is no phenomena in that consciousness. In altre parole, non ci sono fenomeni in quella coscienza. Nothing to be seen, heard, touched, tasted, so on, so on, so on, so on. Non c'è nulla che vada, che possa essere visto, udito, gustato, toccato, eccetera. Without boundary. Senza confini. It's phenomena that create boundaries. Perché sono i fenomeni che creano i confini. And in all directions full of light. E in tutte le direzioni è pieno di luce. Just this is the end of suffering. È proprio questa la fine della sofferenza. So he's in this particular sentence he's clearly pointing to an experience which is beyond the phenomenal world. E quindi in questa definizione, questa spiegazione chiaramente sta indicando un'esperienza che va oltre questo mondo fenomenico. And when he says that when you are mindful, you are in the vicinity of, you are, what do I use? In the presence of, in the vicinity of Nibbana. Quindi lui dice che quando uno è consapevole è alla presenza del Nibbana. So remember, this process is leading us to this experience. Quindi ricordatevi che questo processo ci sta portando verso questa esperienza. But we must also recognize that we cannot achieve it. Ma dobbiamo anche però riconoscere il fatto che noi non possiamo raggiungerlo, nel senso di ottenerlo. Yeah. It's beyond the grasp of me wanting Nibbana. See, can't do it. Perché va oltre questa idea del io che voglio afferrare Nibbana. Non lo posso fare. That's why all the teaching is about letting go, just allowing things to rise and pass away. Per questo tutti gli insegnamenti sono basati su questo lasciare andare. Quindi tutti i fenomeni che sorgono vanno lasciati andare. E non mangiare più gelati. You see. Well, you can once you become Buddha with no problem. Noto che sei diventato un Buddha, puoi mangiare senza problemi. So if questions arise from this, put them on a bit of paper and we'll clarify. Se vi vengono delle domande rispetto a questo, scrivetele su un pezzo di carta e poi li possiamo chiarire. So I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. And not added to confusion. E che non abbiano aggiunto alla confusione, qualcosa alla confusione. That this will sharpen your observation. Che questo possa, come dire, rendere più acuta la vostra osservazione. Lead you to deeper insights. E portarvi a degli insights più profondi. And finally to your liberation. E infine portarvi alla liberazione. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Very good. So we do some, as I say, always just reflect on, you know, how you are at this present moment. It might be that you just want to practice this quiet abiding in the present moment, or do some walking meditation, or both. Quindi riflettete di cosa, come vi sentite in questo momento. Potreste voler fare questo dimorare nel momento presente, dimorare tranquillo nel momento presente, o fare un po' di camminata, o tutte e due le cose.